Focus Economia. Con Simone Spezia. Ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Oggi sarete con me, domani torna come sempre Sebastiano Barisoni. I nostri contatti per intervenire in diretta, per le vostre domande, le vostre osservazioni, le vostre idee: il 349-238-6666 per gli sms, e poi c'è lo stesso numero che vale anche per WhatsApp se volete scriverci un messaggio appunto su WhatsApp. Di cosa parleremo oggi? Naturalmente torneremo sul tema delle banche. Questo lo faremo nella seconda parte della trasmissione. Le quattro banche salvate dal governo: Banca Marche, Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cari Ferrara e Cari Chieti, e le conseguenze che tutto questo sta portando. Si inizia a fare innanzitutto un po' di chiarezza sul numero dei risparmiatori coinvolti e anche un po' più di chiarezza sulle responsabilità e su quello che effettivamente è successo, mentre la vicenda sta assumendo connotati importanti dal punto di vista politico, come vi ha raccontato anche il giornale radio, anche se non è questo esattamente il nostro campo, insomma quello esattamente del quale ci occupiamo, però sta portando quello che forse è il primo vero grosso problema per il governo Renzi, una mozione di fiducia presentata nei confronti del ministro Maria Elena Boschi, il cui padre era stato per qualche mese vicepresidente della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, il cui fratello è stato un dirigente appunto sempre della stessa banca, e poi una mozione di sfiducia più in generale allo stesso governo. Al di là delle questioni politiche, come si diceva, iniziano ad emergere responsabilità, si allarga il fronte delle indagini, arrivano indagini sugli ultimi vertici della Popolare dell'Etruria e del Lazio ed emergono dettagli veramente impressionanti. Se considerate per esempio la coppia di interviste che troviamo oggi sul quotidiano La Repubblica, la prima ad un direttore di filiale che vuole rimanere anonimo e che dice: i dipendenti ricevevano premi in soldi sul rendimento settimanale, quindi erano invogliati di fatto, e come in parte abbiamo già raccontato, a vendere obbligazioni subordinate ai clienti. È iniziata una caccia all'uomo spietata, correntisti, soprattutto anziani, venivano raggiunti in case di cura o ospedali, incontrati casualmente fuori da scuola e invitati ad andare in banca o chiamati uno per uno. Persino nelle case di cura andavano per piazzare obbligazioni subordinate sulle quali avevano qualche difficoltà a venderle. Su questo c'è un bel pezzo di Fabio Pavesi oggi sul Sole 24 Ore, che racconta che cosa esattamente è successo in un determinato momento della vita di quella banca. È successo che l'agenzia di rating Fitch ha assegnato un rating alla Banca Popolare dell'Etruria del Lazio, ed era una doppia B+, che vuol dire un rating, un giudizio speculativo di fatto sul debito della banca. E che cosa è successo? La banca ha deciso di rifiutare questo rating, perché questa cosa si può fare. E che cosa comporta il rifiutare questo rating? Vuol dire: io a questo punto non mi rivolgo più, nel momento nel quale devo vendere obbligazioni, quindi devo vendere il mio debito, non mi rivolgo più agli investitori istituzionali, perché gli investitori istituzionali mi chiederebbero un rendimento troppo alto, probabilmente superiore al 7%. E invece che cosa succede? Che cosa decide di fare la Popolare dell'Etruria e del Lazio? Di vendere il suo debito esattamente alla clientela, consentendosi dei rendimenti più bassi. Proprio su questo, sul tema dei rendimenti di queste obbligazioni subordinate, arriveremo più avanti, e sarà uno dei temi di approfondimento di questa seconda parte della trasmissione. L'altra intervista interessante, sempre pescata da Repubblica, è di un ex membro del CDA, come spesso accade in queste banche locali, si tratta di imprenditori della zona, nella fattispecie è un imprenditore che è stato per due stagioni nel CDA di Banca Etruria e che racconta, tra le altre cose, il 23 ottobre del 2009, tre giorni prima dell'assemblea dei soci di Banca Etruria, andai in Banca d'Italia e volli verbalizzare tutto quello che avevo visto sui comportamenti disinvolti della banca. Parliamo del 2009. E qua un grosso interrogativo deve aprirsi evidentemente anche sul ruolo e sulle autorità di vigilanza, se veramente hanno fatto tutto quello che si doveva. Ovviamente noi stiamo sostenendo e continuiamo a sostenere come gruppo editoriale un manifesto del quale trovate i punti principali anche oggi sul Sole 24 Ore per la tutela del risparmio, nel quale, tra le altre cose, tra i punti importanti c'è per esempio quello di avere dei prospetti informativi più chiari, più semplici, che gli azionisti comprendano meglio. Ci sono le revocatorie nei confronti degli amministratori che sono stati protagonisti di malversazioni o di cattivi comportamenti nei confronti di risparmiatori e molto altro. È un manifesto per la tutela del risparmio in 5 punti. Di banche, come si diceva, parleremo più avanti, ascolteremo anche un passaggio dell'intervista della nostra Livia Zancaner, realizzato con Nicastro, che è alla guida delle nuove banche, di queste 4 nuove banche nate dal decreto. L'altro tema che toccheremo, allora sicuramente parleremo di mercati, perché oggi la giornata è decisamente ottima, un più 3% sul FTSE MIB in questo momento, un più 3% anche sul FTSE OCER. Positive sono tutte le piazze finanziarie europee. Che cosa succede? Succede, tra le altre cose, che il petrolio recupera un po' di terreno. Si attende, ovviamente gli occhi sono puntati sulle decisioni della Federal Reserve che arriveranno domani. Oggi si apre appunto il vertice del Federal Open Market Committee, che deciderà probabilmente per un rialzo dei tassi di interesse. Ormai i mercati ne sono sostanzialmente certi, e questo evidentemente l'hanno già scontato. E questo per quanto riguarda i mercati che vedono i bancari andare particolarmente bene oggi, col Monte dei Paschi guadagna il 5,8, Banco Popolare il 5,7, Popolare Emilia Romagna il 5,6, Popolare Milano il 5,2, bene anche Telecom Italia più 4,7%, Anima più 4,7, Fiat Chrysler più 4,2, ci sono anche i dati sulle immatricolazioni qua che pesano, e in fondo al listino solamente due titoli in negativo: CNH che cede lo 0,62% e Italcementi che cede lo 0,20%. Altra cosa della quale parleremo è la legge di stabilità. Più che altro tenderemo nella giornata di oggi a fare un punto su quelle che sono le novità emerse oggi, ad un passo dall'approdo in aula della legge. Appunto, ci sono una serie di novità, più fondi per l'identificazione dei migranti e quindi per lo staff che si occupa di queste cose. È arrivato nella notte l'emendamento che consente di assumere 6.000 persone nel personale sanitario, questo per scongiurare il fatto che ci siano buchi in organico a causa del recepimento di una vecchia direttiva europea che abbiamo ricepito solamente adesso e che crea dei problemi di turnazione, tanto che considerate in un ospedale di Cagliari l'altro giorno, proprio in forza di questa direttiva, hanno dovuto rinunciare a un trapianto di reni ed inviare i reni a Torino perché non erano in grado di garantire il trapianto in quell'esatto minuto. 349-238-6666 per i vostri sms e anche per WhatsApp. Le notizie in breve di oggi. A proposito dei vostri messaggi, c'è già qualcuno che ci scrive e questo è un altro punto importante. Qualcuno ci dice: scusate, ma qua siamo tutti fessi? E qualcun altro ancora dice è la replica di quello che è successo, l'inseguimento per dei correntisti per rifilare immondizia, la replica di quello che è successo per i Tango Bond. Ecco, questo è un punto molto delicato che va affrontato e andrà affrontato, perché c'è una responsabilità delle banche, di queste specifiche banche, c'è evidentemente una responsabilità molto probabile delle autorità di vigilanza, che non hanno vigilato abbastanza, e c'è anche un po' di responsabilità dei risparmiatori, che poi devono anche andarsi a vedere queste cose, per quanto complicate siano da leggere. E non fidarsi necessariamente del cosiddetto bancario di fiducia. Senza nulla togliere a tutti i bancari che fanno il loro mestiere correttamente, materie prime innanzitutto, l'oro in lieve calo a 1063 dollari l'oncia, del petrolio vi dicevo oggi si segnala un qualche rialzo, WTI con consegna a gennaio un più 1,27% a 36,7 dollari al barile, e il Brent, quello del Mare del Nord, quotato a Londra più 0,98% a 38,28 dollari al barile. L'agenzia Moody's per conto suo ha tagliato il prezzo di riferimento del petrolio per il prossimo anno, il prezzo del Brent è stato tagliato a 43 dollari al barile dai 53 precedenti. E Moody's mantiene negativo l'outlook, ossia la sua visione sull'industria petrolifera, che riflette i potenziali rischi di un aumento delle esportazioni di petrolio da parte dell'Iran nel 2016 e una minore domanda dalla Cina. Allora, c'è un dato dagli Stati Uniti oggi importante, anche perché teoricamente dovrebbe avere a che fare con quello che deciderà la Federal Reserve. L'inflazione è rimasta invariata in novembre, l'indice core, cosiddetto core, cioè al netto di energia e alimentari, è salito dello 0,2%. Qua c'è un tema interessante, perché inizia oggi e si conclude domani quella che potrebbe essere la riunione del Comitato Monetario della Federal Reserve più importante degli ultimi anni. Si prevede che appunto la Banca Centrale Americana alzerà il costo del denaro per la prima volta, grazie a un'economia sostanzialmente in buona salute. La previsione più accreditata è che la misura sia bassa, 25 punti base, ossia si passi da un intervallo tra lo 0 e lo 0,25% allo 0,25-0,50 e poi continui ad aumentarli a passo lento nelle successive riunioni. Ora, qua c'è uno snodo fondamentale sottolineato da molti analisti, da molti giornali. C'era un bel articolo su Wall Street Journal del quale si parla oggi anche sul Sole 24 Ore, perché ci sono due fronti qua. Da una parte quest'inflazione che dovrebbe rimanere più o meno vicina al 2% anche per la Federal Reserve, non solo per la BCE, anche se non è il suo unico mandato, per così dire, che invece continua a rimanere bassa nonostante la ripresa sia partita. Questo suscita una qualche perplessità. Dall'altra parte è ben difficile che, dopo averlo annunciato tante volte, Janet Yellen non rialzi i tassi di interesse, perché perderebbe quello che è il denaro più importante per una banca centrale, che non è il denaro che può stampare, ma la credibilità. A proposito dell'Italia e delle banche, c'è un intervento del presidente dell'Eurogruppo, Dijsselbloem, che dice il passaggio fondamentale dell'approccio europeo nei confronti delle banche dopo la crisi è quello dal precedente sistema di bailout a quello attuale di bail-in, dove le banche contribuiscono a salvarsi da sole per spezzare il circolo vizioso con il debito sovrano. Dijsselbloem chiede un approccio onnicomprensivo per completare l'unione bancaria, perché tutti i fondi, incluso quello sui depositi, devono procedere in parallelo. Le notizie ancora ci raccontano che l'ultimo presidente di Banca Etruria, Lorenzo Rosi, e l'ex consigliere di amministrazione Luciano Nataloni, già vicepresidente di Banca del Vecchio, sono stati iscritti nel registro degli indagati nel fascicolo aperto dalla Procura Aretina sul conflitto di interessi, terzo filone di indagine. Qua ancora a proposito delle banche, qualcuno ci scrive: ma se ti danno un rendimento del 6-7%, anche se non sei un ragioniere, qualcosa di strano devi pensare che ci sia. Questo ci scrive un ascoltatore via WhatsApp. Allora, in parte è vero, come vedremo più avanti, lo faremo con Moria Longo del Sole 24 Ore, che di mercato obbligazionario si occupa parecchio e oggi scrive un'ampia pagina su questo, sul Sole 24 Ore. Vedremo che i rendimenti non erano questo granché, non erano questo granché rispetto a obbligazioni subordinate di banche molto più solide. Ci sono emissioni di Unicredit di obbligazioni subordinate al 7%, con emissioni paragonate a emissioni per esempio di Etruria al 5%. Capite che anche qua la percezione del rischio da parte di un risparmiatore sulla base del rendimento è completamente sfalsata. Comunque, ancora su questo tema, il ministro dell'economia Piercarlo Padoan dice che è ancora presto per parlare di soglia, stiamo attivando un meccanismo di arbitrato, il governo sta facendo tutto il possibile per salvare 1 milione di clienti, 1 miliardo di depositi, per rimettere in carreggiata le 4 banche e salvare 6.000 posti di lavoro. Dice ancora Padoan che il ministro Maria Elena Boschi uscirà alla grande, non ha nulla da nascondere, e dice: piena fiducia dopo gli scontri dei giorni scorsi, abbastanza netti, e anche l'intervista rilasciata ieri al presidente della Consob, Vegas, che dice: noi abbiamo fatto tutto il possibile, ma il governo che non è intervenuto, dice, le istituzioni sono solidali e forti, dice Padoan, piena fiducia a Banca Italia e Consob. L'attività di vigilanza non è messa in discussione. Più avanti sentiremo anche la voce di Roberto Nicastro, presidente delle 4 cosiddette Good Bank, che racconta anche al microfono della nostra Livia Zancaner che i problemi che hanno coinvolto i risparmiatori delle 4 banche in crisi sono un fenomeno acuto, ma fortunatamente molto più circoscritto di quanto paventato inizialmente. Quelli coinvolti più intensamente, identificabili come piccoli risparmiatori, cioè sotto i 100.000 euro di patrimonio, sono circa 1.000. Sentiremo anche la voce del presidente dell'ABI, Patuelli, intervenuto a Mix 24 con Giovanni Minoli, che dice che bisogna evidenziare l'alto rischio come sulle sigarette, cioè scrivere, non lo so, nuoce gravemente al portafoglio o può nuocere gravemente al portafoglio, qualcosa di questo genere, immagino. E racconta che le obbligazioni del pensionato morto suicida erano state comprate sul mercato secondario, quindi non erano state vendute direttamente dalla banca. Segnala anche l'ABI una lieve flessione delle sofferenze, cioè dei crediti non più esigibili, a 199 miliardi dai 200,4 di settembre, il dato evidentemente di ottobre. E poi, sempre sull'Italia, abbiamo delle nuove dichiarazioni del presidente dell'INPS, Tito Boeri, in audizione alla Camera. Dice che chiede che sia mantenuto il limite al contante a 1.000 euro per il pagamento delle pensioni, togliendo questi pagamenti dall'innalzamento dell'utilizzo del contante previsto dalla stabilità a 3.000 euro. Poi fa sapere che l'INPS a fine settembre ha accumulato quasi 95 miliardi di crediti contributivi. In questi crediti erano 87 miliardi a fine 2014, 50 di questi sono stati accumulati durante la crisi economica. E a proposito di pensioni, spesso ci occupiamo di quelle dei dipendenti, ma forse non abbastanza di quelle dei professionisti. L'ADEP, l'Associazione delle Casse di Previdenza Private, ha presentato un rapporto parlando proprio dei professionisti. Il reddito medio degli iscritti è crollato, con una perdita in termini reali del 18,3% tra il 2007 e il 2014, anno nel quale è disponibile l'ultimo aggiornamento. E ancora, si amplia anche il divario dei redditi tra le donne e gli uomini. Le professioniste sono dimezzate rispetto ai colleghi maschi in quanto a redditi, un divario che si è ampliato. E ancora, un professionista in Calabria guadagna il 65% in meno di un collega in Lombardia, sempre per rimanere sui temi del divario, in questo caso territoriale. Il presidente di ADEP, Andrea Camporese, intervistato da Anna Marino, illustra i contenuti del rapporto. Sono numeri purtroppo molto pesanti, nel senso che molte professioni hanno perso redditi superiori al 30% nell'ultimo quinquennio. Ancora registriamo una negatività e soprattutto una differenza molto marcata tra uomini e donne, tra nord e sud. Questo gap è un gap che ci preoccupa molto, che deve trovare delle politiche specifiche. Sta invecchiando la professione. Abbiamo uno spartiacque a 40 anni. Chi sta sotto ha difficoltà economiche di reddito molto importanti. Chi sta sopra va molto meglio. Cioè il giovane professionista ci mette un sacco di tempo prima di diventare autonomo. E questo è un problema molto serio che va affrontato anche da parte nostra, accompagnando i professionisti nell'arco della vita lavorativa e non semplicemente erogando una pensione. C'è un nodo futuro. Si parla di crisi ormai superata, ma come si può fare per andare oltre? Crediamo che si debbano creare maggiori condizioni di lavoro e quindi stiamo elevando i livelli di protezione di welfare, diciamo allargato e integrato. Stiamo cercando di aiutare i nostri colleghi ad aprire gli studi professionali, a dare prestiti a bassissimo tasso, incentivarli e aiutarli a fondersi, ad unirsi. Questo attraversa anche l'Europa. 250 milioni di euro di finanziamenti in bandi regionali in essere in questo momento destinati ai professionisti. Ecco, anche questa linea di finanziamento europeo che è nata un anno e mezzo fa è qualcosa di molto importante, ci abbiamo lavorato molto, quindi dalla parte nostra creare maggiori condizioni di entrata e di permanenza nel mercato. Più in generale il tema è del paese. Voi che cosa chiedete al governo da questo punto di vista? C'è un tema di tassazione ormai annoso, le plusvalenze generate dal sistema sono tassate al 27%, secondo noi è ingiusto, in altri paesi europei non vengono tassate perché questi utili tornano a beneficio degli iscritti e questo è un tema, diciamo, fiscale ed economico molto importante. E più in generale con il governo vorremmo dialogare per cercare anche di creare delle condizioni di miglior favore per i giovani, quindi un lavoro anche sulle start-up, sulle iniziative, sull'entrata nel mercato del lavoro. Stiamo lavorando anche col Ministero dello Sviluppo Economico in questo senso. Quanti siete adesso? L'Italia ha il più alto numero di professionisti in Europa, che sono iscritti agli ordini, sono quasi 3 milioni, iscritti alle casse previdenziali, tra attivi e non attivi, sfiorano i 2 milioni. Sono numeri molto importanti. La crisi non è finita, però dei segnali di controtendenza ci sono anche, soprattutto in alcune zone del paese, cioè al nord. No allo scontro tra generazioni, sia una ridefinizione del perimetro del welfare e della previdenza in generale che guardi a un mercato del lavoro completamente cambiato. Dunque, arrivano molti messaggi sul tema di quanto chi sta in banca è obbligato di fatto a vendere alcuni prodotti. Ci scrive un ascoltatore via WhatsApp: sono un quadro direttivo di una grande banca, le posso assicurare che tutti i colleghi addetti al commerciale lavorano male perché le pressioni che arrivano dall'alto sono inaudite. In questa direzione il governo dovrebbe intervenire. Un altro ascoltatore: io sono bancario, da poco ex bancario, mi hanno fatto vedere bond argentini, obbligazioni subordinate, azioni della stessa banca per ottenere agevolazioni nelle condizioni di conto, ultimamente polizze non opportunamente argomentate. E a Sergio D'Assisi che ci chiede se è il caso di rimanere come odesto correntista con Etruria, rispondiamo di girare la domanda alle nostre colleghe di Cuore e Denari, Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani, che stanno dedicando una settimana speciale anche a voi, prevalentemente a voi e anche a tutti coloro che hanno risparmi investiti magari anche in obbligazioni subordinate. Dalle 10:30 a mezzogiorno tutti i giorni, anche via mail, eh. Qualcuno suggerisce, provate a chiedere tramite i vostri microfoni e bancari in ascolto se hanno mai avuto pressioni dalle banche per vendere titoli su cui loro stessi non avrebbero mai investito un euro. Questo non lo so, quello che le posso dire è che gli stessi dipendenti di queste banche hanno subito pressioni, a quanto pare, a quanto è stato riferito quantomeno dal sindacato dei bancari, per comprare questi titoli. Tra azionisti e obbligazionisti, per esempio, tra i dipendenti della Popolare dell'Etruria e del Lazio, sono 2200 su 2800 dipendenti. E percentuali simili si registrano in tutte le altre banche, le altre tre banche, tranne Cassa di Risparmio di Chieti. Continuate a scriverci se volete, 349-238-66, tanto per gli sms quanto per WhatsApp. Noi adesso ci fermiamo, ci prendiamo una pausa, ci ritroviamo tra un attimo, parleremo di industria, parleremo di acciaio, parleremo della legge di stabilità, ma ovviamente continueremo anche a parlare di banche, naturalmente dei mercati che nel frattempo hanno chiuso sui massimi, più 3,5% il FTSE MIB, più 3,3% il FTSE All Share. A tra poco. State ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms, per i vostri messaggi su WhatsApp. Qua nessuno, lo dico sia chi ci scrive da una parte chi dall'altra, nessuno è una verginella o Alice nel Paese delle Meraviglie. Sappiamo che esistono comportamenti di questo genere in alcune banche, cioè pressioni a volte di vertici per piazzare alcuni prodotti. Ovviamente è una cosa che non va generalizzata, però è una cosa evidentemente alla quale stare attenti. Un altro ascoltatore mi scrive appunto su WhatsApp, dice, ma insomma, volevo capire, ma siamo dei cretini perché ci fidiamo? Non dico questo, dico che poste tutte le responsabilità dei vertici che hanno compiuto malversazioni o si sono comportati male, posti tutti gli errori della vigilanza, posti gli eventuali errori governativi, chi ha in mano i nostri soldi siamo noi. E quindi se nel momento nel quale andate a comprare un'auto consultate le riviste specializzate, vi studiate i test drive, controllate che sia parcheggiabile nella zona nella quale vivete, che abbia quel giusto grado di emissioni, che sia sicura per i bambini, che abbia le dimensioni giuste del bagagliaio, allo stesso modo dovete fare la stessa cosa nel momento nel quale guardate un investimento. Perché sono cose che possono fare molto più male. C'è gente che ci ha smazzato 90, 100, 120 mila euro in questo caso. Una macchina sbagliata, diciamo, è una cosa che si rimedia un po' di più. E quindi chiedere, domandare, informarsi, per quanto difficile ci possa sembrare. Questo a prescindere da tutte le regole che ci vogliono, cioè una maggiore chiarezza nei prospetti informativi, come chiede il Sole 24 Ore, questo manifesto per la tutela del risparmio lanciato sabato mattina, la separazione tra la concessione del credito e l'acquisto di obbligazioni o azioni della stessa banca, altro comportamento grave e troppo diffuso. E però ci siamo noi che a volte ci mettiamo un po' di omesso controllo, bisogna dirselo questo. Parliamo di industria pesante in questo caso, di industria pesante, perché ad un anno dall'accordo sulle acciaierie di Terni, L'amministratore delegato Lucia Morselli ha incontrato i sindacati e presentato il bilancio chiuso al 30 settembre, che ha mostrato il ritorno ad un risultato operativo positivo per 11 milioni di euro. E quindi vi raccontiamo di una vicenda che almeno al momento si è conclusa bene. Risultato netto ancora negativo, ma in netto miglioramento rispetto alla perdita di 128 milioni di un anno fa. Un risultato, un incontro incredibili. Le parole di Lucia Morselli nell'intervista di Livia Zancanera. È stata la ufficializzazione di una nuova acciaieria, quindi è stato un incontro incredibile, perché io un anno fa c'avevo una acciaieria che stava veramente nei guai. Oggi raccontavo di un'altra azienda, una storia a lieto fine, ma è costata tanta fatica, tanto sacrificio, e a me che l'ho vissuta dà ancora dell'incredibile per la velocità e la rapidità con cui è stato fatto questo, raggiunto questo risultato. Quindi i rapporti con il sindacato dal mio punto di vista sono ottimi. La parte di occupazionale è stata rispettata, ma erano le cose, non potevamo che rispettarlo, era una ratifica di uscite già avvenute. Poi per quanto riguarda gli investimenti che erano stati descritti, sono stati stamattina rendicontati e sono stati tutti rispettati, perché c'è stato l'investimento per la linea, il trasferimento della linea di Torino, molto importante, di circa 30 milioni, che è stato assolutamente rispettato. Poi siamo entrati nell'interconnector, che è quella cosa terribile che serve per costruire una connessione fisica con l'energia elettrica francese, e anche questo sono altri 30 milioni che è stato rispettato, perché siamo entrati in questo consorzio e questo è l'impegno che richiede il consorzio. E poi tutti gli altri investimenti abbiamo fatto in questo anno, preso impegni per circa 90 milioni di investimenti. Tenga conto che ne avevamo un impegno di farne 170 circa in 4 anni e quindi ne abbiamo fatti più della metà in uno. Per quanto riguarda le altre preoccupazioni, che erano quella delle colate, cioè dei volumi produttivi, siamo stati in linea col milione di tonnellate di acciaio fuso, che vuol dire il prodotto dell'alto forno e dei forni, insomma, di acciaieria. Questo è stato fatto ed è stato confermato anche per il prossimo anno. Quindi direi che tutti gli impegni, ci eravamo presi l'impegno di non perdere i ragazzi che erano in apprendistato, e quindi nonostante le uscite incentivate abbiamo assunto tutti i ragazzi che facevano apprendistato, una trentina di ragazzi. Quindi direi che gli impegni principali sono stati tutti mantenuti. I sindacati dicevano che l'accordo è stato rispettato, ma a volte a discapito dei lavoratori, nel senso che, visto la fuoriuscita di forza lavoro, lavorano di più ma senza i giusti riconoscimenti, hanno detto. Signori, questo io penso che, insomma, capisco perché il sindacato dice questo. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un accordo che era un accordo di rilancio, di ristrutturazione, io preferisco dire di rilancio, e accanto c'era però la rinegoziazione del contratto di lavoro. La rinegoziazione del contratto di lavoro ha cambiato il sistema di remunerazione, però l'abbiamo rispettato, non è che non è stato rispettato. Certo, anche dal punto di vista del lavoratore sono stati chiesti dei sacrifici. Lavorare di più si chiama produttività. Questa azienda perdeva 150 milioni all'anno, quest'anno non ne perde più. È chiaro che vuol dire che la produttività è salita. Se la produttività è salita, significa fare le stesse cose con meno risorse. Più che altro i lavoratori e i sindacati ovviamente chiedono rassicurazioni sul futuro della acciaieria. Da una parte vogliono capire quindi quali sono le intenzioni di Thyssen su Terni. Quello che posso dirvi è oggi non c'è nessun piano di dismissione da parte di Thyssen della società. La Thyssen si sta impegnando in modo straordinario, sostenendo investimenti a questi livelli. Non sono sintomi di disimpegno, sono sintomi di grande impegno. Questo è quello che accade oggi. Il futuro, nel senso, se fra un anno, due anni, tre anni, cinque anni c'è l'offerta irrinunciabile, non so cosa farà la Thyssen. Adesso non c'è nessun piano di disimpegno, nessuno. Va bene, qualcuno ci scrive ancora a proposito di banche, dice: ogni volta entro in banca mi porto un registratore. Forse è un po' troppo, francamente. Qualcun altro dice: il paragone con l'auto non regge, perché poi succede un caso Volkswagen e, insomma, e le emissioni che tu avevi prospettato non ce l'hai. Qualcun altro dice, ci sta dicendo di tenere i soldi sotto il materasso. No, non sto dicendo assolutamente questo, dico semplicemente che le cose vanno ragionate magari confrontando. Qualcun altro dice: ah, ma non mi posso nemmeno fidare dell'idraulico, non mi può del meccanico, di nessuno. Dipende, perché se uno deve far aggiustare un rubinetto è un conto, se devi rifare completamente il bagno magari tre preventivi li chiedi. Ecco, questo se vogliamo buttarla sul paragone brutale. E i prodotti finanziari sono prodotti tanto quanto i prodotti fisici, un po' più complicati, lo ammetto. Il traffico e poi parliamo della manovra. Focus Economia. Ancora qualcuno dice che, a prescindere dall'educazione finanziaria, che è un punto comunque fondamentale, dice: ci sono casi nei quali siamo stati sottoposti a dei ricatti, cioè non ti do il mutuo se non compri azioni e obbligazioni. L'abbiamo detto, questo è uno dei punti del manifesto per la tutela del risparmio del Sole 24 Ore. Queste due cose vanno separate nettamente, perché ci può essere una forma di ricatto. Siamo alla legge di stabilità, poi nella seconda parte della trasmissione torneremo ad approfondire il tema delle banche. Siamo al rush finale per l'arrivo in aula. Vincenzo Miglietta dalla Camera dei Deputati, buongiorno, buonasera anzi. Buonasera, buonasera Simone, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, quali sono le ultime? Le ultime sono le seguenti, partiamo dalla tempistica dei lavori parlamentari e da ieri sera che diciamo tra poco la Commissione Bilancio approverà la legge di stabilità, invece alla fine sono passate quasi 24 ore, questo non è successo, dovrebbe accadere nei prossimi 60 minuti, anche se poi continuano in realtà ad essere approvati emendamenti su emendamenti, molti li definiscono, Simone, delle mance, perché sì, si tratta di micro emendamenti. Comunque il testo dovrebbe essere approvato oggi e arrivare così in aula alla Camera giovedì. Allora, Vincenzo, sulle mance io credo che avremo molto da dire, soprattutto nei prossimi giorni, quando finalmente avremo un testo definitivo e lo potremo scavare dovutamente per capire chi ha concesso mance a chi, ossia chi ha firmato gli emendamenti e quali sono i territori beneficiati, e su questo sicuramente ci torneremo. Intanto, quali sono le novità più importanti? Le novità più importanti, e che forse sono a maggiore impatto mediatico, riguarda la possibilità di pagare anche i micro importi con il Bancomat. Se ne è discusso molto, è diventato un obbligo, anche se qui c'è poi sempre l'escamotage per non rispettarlo, perché si dice, l'emendamento approvato in Commissione Bilancio dice, non trova applicazione questa misura nei casi di oggettiva impossibilità tecnica, quindi immaginiamo come si potrebbero comportare chi avrà l'uso del Bancomat in questi casi, ma comunque resta l'obbligo di poter pagare, quindi anche per micro importi come il caffè al bar o il giornale all'edicola, e questa è una novità dell'ultimo minuto. Senti sì. Vincenzo, invece nell'ambito delle misure un po' più importanti, al di là di questa dei micropagamenti, che sicuramente è popolare, noi siamo alla vigilia di uno sciopero dei medici proclamato da tutte le sigle sindacali, tra l'altro un unicum a quanto pare, è arrivato nella notte finalmente l'emendamento, anche se non è strettamente correlato, che consente l'assunzione di 6.000 persone nel personale sanitario, no? Le risorse, ha spiegato il ministro Lorenzin, arriveranno da paralleli tagli di spesa sempre nel settore della sanità. In ballo ci sono comunque non meno di 6.000 assunzioni tra medici ed infermieri, e la soluzione adottata prevede che le regioni individuino entro febbraio il fabbisogno di personale necessario alla copertura dei servizi. A quel punto le regioni stesse saranno autorizzate a procedere con assunzioni a termine e da giugno a bandire i concorsi per le assunzioni stabili per i posti vacanti. Lo ripetiamo, si tratta su per giù di 6.000 assunzioni, ma comunque lo anticipavi da studio, lo sciopero domani è confermato da parte dei medici e poi nella notte altro importante pacchetto, quello della sicurezza e cultura, 2,6 miliardi, e tra questi vi sono anche risorse per coloro che intervengono nella prima fase di riconoscimento degli immigrati. Benissimo, io ti ringrazio Vincenzo Miglietta e ti lascio al lavoro anche per i nostri giornali radio sul assunto della manovra. Qualche micromisura già ce l'abbiamo, intanto ve la riferisco io. Allora, niente spending review, limiti alle assunzioni per Matera, capitale europea della cultura, 5 milioni all'anno per 4 anni per il completamento del restauro dei Sassi. E va bene, insomma qua tutto sommato ci potremmo anche stare. C'è anche uno stanziamento di 12 milioni di euro per il 2016 a favore del comune di Campione d'Italia, aperte virgolette, in considerazione delle particolari condizioni geopolitiche, cioè Campione d'Italia si trova in Svizzera e le particolari condizioni geopolitiche impongono che si versino 12 milioni di euro a Campione d'Italia. Un altro provvedimento molto atteso è che la Federazione Sportiva Nazionale ACI è autorizzata a sostenere la spesa per i costi organizzativi e di gestione del Gran Premio Automobilistico di Formula 1 di Monza, che come sapete era a rischio. Vedremo poi nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, che cosa uscirà di dettaglio su tutto questo. Intanto andiamo alla borsa. No, a chi ce lo chiede, che probabilmente fa parte della Croce Rossa, no, non so se ci siano soldi in arrivo per la Croce Rossa, in tutta sincerità non ancora, quando avremo il testo della stabilità ve lo diremo. Veniamo ai mercati, mercati che finalmente chiudono un'eccellente giornata, più 3,7% il FTSE MIB, più 3,5% il FTSE Share. Ceo Condi, la Radio Cuore, il Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Iniziamo e poi proseguiremo dopo il giornale radio. Innanzitutto, cos'è successo a livello generale in 30 secondi? Ma diciamo che ieri i mercati erano crollati, avevano toccato i minimi da agosto, ma in realtà erano praticamente i minimi da gennaio, quindi oggi un rimbalzo importante dei mercati ci stava. In più forse ieri è stata scontata del tutto quella che era l'attesa per la Federal Reserve, la banca centrale americana, che domani sera, salvo sorprese dell'ultima ora, tornerà ad alzare i tassi di interesse. In più oggi c'è stato anche un rialzo del prezzo del greggio, che è risalito a $37 al barile, spingendo al rialzo a sua volta i titoli del comparto energetico in Europa, quindi tutte tante condizioni che hanno favorito il rimbalzo dei listini. Questo a livello di quadro generale. Andremo sui singoli titoli tra poco, dopo il GR. Un Natale emozionante, che fa storia. Beh, un Natale di cuore. E perché no? Anche di denari. Che questo sia un Natale di speranza, che dopo arrivi anche la Befana. Un Natale da raccontare. Beh, che sia un Natale che sotto l'albero porti la svolta non solo economica e non solo a parole. Un Natale in cui stare attenti. Molto, ma molto attenti. Perché se c'è una cosa in cui siamo tutti convocati, è proprio Natale. Radio 24. La passione si sente anche a Natale. Il decreto salvabanche di fine novembre consegna al paese la rabbia di migliaia di italiani che avevano riposto la propria fiducia in quegli investimenti proposti come sicuri, le obbligazioni subordinate. Chi sono gli italiani che hanno fatto questi investimenti? Come potranno tutelarsi? E come riconoscere i prodotti a rischio? Come gestire il timore che altri casi del genere possano ripetersi? Come proteggere il nostro denaro? Le istituzioni finanziarie meritano ancora la nostra fiducia? Per rispondere a tutte queste domande e ascoltare le vostre testimonianze, una settimana speciale di Cuore e Denari, ogni giorno in diretta il commento sulle novità, sulle misure salva risparmiatori e le risposte dei nostri esperti alle vostre domande in diretta. Donne, è arrivato Melod del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Sia un Natale emozionante, che fa storia. Beh, un Natale di cuore. E perché no? Anche di denari. Che questo sia un Natale di speranza, che dopo arrivi anche la Befana. Un Natale da raccontare. Radio 24. La passione si sente anche a Natale. State ascoltando un programma offerto da Saxo Bank, la banca del trading e degli investimenti. Focus Economia. Buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa seconda parte di Focus Economia. Tra poco arriveremo, come si diceva, al tema delle banche. Vi chiedo di non fossilizzarvi sull'esempio che facevo prima. Dicevo, insomma, quando comprate un'auto, fate attenzione a mille cose, a mille dettagli, riviste specializzate, confronti, però spesso è una cosa che non facciamo quando prendiamo un prodotto finanziario. Non fossilizzatevi sull'auto cercando il buco nel paragone. Il tema è che sono prodotti e quindi vanno presi come prodotti, pensati come prodotti, esattamente come quando scegliamo una lavatrice, un paio di scarpe. Il prodotto finanziario ci deve calzare a pennello, deve essere quello giusto per noi e dobbiamo essere coscienti dei rischi ai quali andiamo incontro. Se prendo una lavatrice fatta male e si scassa, ci ho perso dei soldi, però magari sono 2, 3, 400 euro. In questo caso parliamo di patrimoni veri e propri e quindi bisogna prestare massima attenzione. Non ho detto niente di straordinario, una vera banalità. E infine Franco dice, ci scrive giustamente, guardate che a me mutui finanziamenti e nessuno mi ha chiesto di comprare obbligazioni e azioni. Infatti non abbiamo detto che è un andamento generale di tutte le banche. In alcune banche, e specie in quelle, in una parte sicuramente, nell'Etruria dai racconti che abbiamo letto, in alcune di queste banche è successo. Allora, eravamo sui mercati ed è una giornata veramente eccellente, più 3,7% sul FTSE MIB, più 3,5% sul FTSE All Share. Bene, tutti i bancari, in specie le popolari, Popolare Emilia Romagna più 6,7%, Banco Popolare più 6,7%, bene Monte dei Paschi più 6,3%, Popolare Milano più 5,8%. Ceo Condi, la Radio Cori, il Sole 24 Ore, di nuovo buonasera, scusa per Ciao, l'attesa. Buonasera. Allora, le popolari naturalmente sono andate molto male la scorsa settimana e quindi ovviamente recuperano in questa giornata complessiva di euforia. Mi soffermerei su singoli altri titoli, se sei d'accordo, a partire da Telecom Italia più 5-6%. Assolutamente, come hai detto tu, le popolari venivano da una... Da alcune sedute difficili, insomma, sono ripartite anche sulle scommesse di una ripartenza, insomma, del consolidamento, in particolare tra UBI e BPM. Anche UBI ieri è stato uno dei pochi titoli a salvarsi. Per quanto riguarda Telecom Italia invece più 5-6%, ricordiamo che Telecom Italia aveva perso ininterrottamente dal 7 dicembre in attesa dell'assemblea dei soci di oggi, assemblea che ha sancito due cose sostanzialmente: da una parte la la bocciatura, grazie tra virgolette a Vivendi, della conversione delle azioni di risparmio in ordinarie, e dall'altra l'ingresso di 4 rappresentanti di Vivendi, forte di una partecipazione di oltre il 20% nel gruppo TLC, nel CDA di Telecom Italia. In ogni caso, veramente forte gli acquisti oggi sul titolo, in buona parte sono anche, diciamo, conseguenza dei ribassi dei giorni scorsi. Bene, anche Anima più 5,11%, altri bancari come Unicredit più 4,9%, Intesa San Paolo più 4,5%, Fiat Chrysler più 4,3%. Su Fiat ci sono diciamo anche qui due elementi. Ieri era stato il peggior titolo, aveva perso oltre il 5% in maniera anche un po' inspiegabile, diciamo. Oggi invece Fiat brinda i dati sulle immatricolazioni di novembre in Europa, il mercato in Europa è cresciuto del 13,7%, Fiat Chrysler ha fatto meglio, più 18,3%, con una quota di mercato che è salita oltre il 6%. Bene, anche Setti Microelectronics che guadagna il 4,3%, Unipol più 4,20%, Prismian più 4,18%, Mediobanca più 4,06%, ancora banche, Ubibanca più 4%, positiva Enium più 4%, qua immagino che pesi il rialzo di oggi del prezzo del greggio, no Ceo? Sicuramente, insomma, Eni è un titolo che vederlo a 13 euro fa un po' effetto, visto che ultimamente è sempre stato a 16-17, insomma, quindi un recupero ci sta. Bene anche Enel più 3,94%, Campari più 3,9%, Luxottica più 3,8%, bene Azimut più 3,8%, Exor più 3,6%, Saipem più 3,5%, Enel Green Power più 3,5%, e ci sono solo due titoli negativi e ti chiedo se ci sono ragioni particolari, che sono CNH meno 0,31%, Italcementi meno 0,2%. Ma guarda, ragioni particolari non tante, Italcementi ieri aveva tenuto abbastanza bene, quindi oggi questa è una conseguenza, insomma, della tenuta di ieri. CNH viene, insomma, da un periodo non facilissimo, ci sono anche forti incertezze legate al prezzo dei cereali, come sappiamo CNH appunto fa trattori, macchine trebbiatrici, quindi sostanzialmente ci sono ancora incertezze sul titolo. Infine, tra i titoli che non particolarmente brillanti in una giornata eccellente, c'è Snam che guadagna comunque 0,5%, Tots lo 0,61%, Jux Net-a-Porter 0,7%, Ansaldo 1%, Buzzi Unicamp 1,87%, infine Pininfarina. Ma guarda, la Pininfarina non ha fatto prezzo per tutta la seduta praticamente, però e anche adesso non c'è ancora fuori un prezzo, quindi immagino che alla fine comunque verrà data una performance. Comunque il prezzo teorico al momento dà un rialzo del 50%, ricordiamo che tuttavia ieri il titolo aveva perso il 70% a seguito dell'attesa vendita agli indiani di Mahindra a un prezzo, diciamo, veramente, veramente ribassato rispetto a quelle che erano le quotazioni di borsa. Grazie anche per oggi a Ceo Condina, Radio Cori Il Sole 24 Ore, e buonasera. Dunque veniamo finalmente al tema delle banche. Ancora il punto dei confronti con gli altri prodotti. Guardate, io non sto dicendo che sia uguale, sto semplicemente dicendo che è una cosa alla quale prestare la massima attenzione. Fare tutte le domande che dovete. Ricordatevi che le persone che avete di fronte vi stanno effettivamente vendendo un prodotto. E quindi voi avete tutto il diritto di avere tutti i dettagli di questo prodotto finché non lo capite fino in fondo. E anche i livelli di rischio. Poi, che in questi casi ci siano stati... ecco, l'intervista che citavamo oggi di un dirigente dell'Etruria, di un direttore di filiale dell'Etruria che vuole rimanere anonimo e che dice... I dipendenti ricevevano premi in soldi sul rendimento settimanale, è iniziata una caccia all'uomo spietata, venivano raggiunti correntisti in case di cura o ospedali, soprattutto anziani, incontrati casualmente fuori da scuola, invitati ad andare in banca o chiamati uno per uno. Ci sono i 198 fidi per 180 milioni di euro concessi a 13 persone del CDA, tutto questo lo sappiamo, cioè non stiamo dicendo che le banche sono sante e i risparmiatori hanno sbagliato tutto, diciamo semplicemente che su certe cose bisogna prestare una grandissima attenzione. E a chi ci dice la differenza è che l'auto se voglio la cambio, la banca no, è sbagliato, perché la banca la puoi cambiare. Su questo avremmo da discutere, sulla mentalità a volte degli italiani e la difficoltà a cambiare banca. A volte anche, come dire, per ragioni della banca stessa, per così dire. Comunque, adesso parleremo con Moria Longo del Sole 24 Ore, che ci ha raggiunto in studio. Ascolteremo l'intervista che ha realizzato Olivia Zancaner, qualche passaggio, l'intervista a Roberto Rincastro, a capo delle quattro nuove banche, e poi anche un passaggio del presidente dell'ABI, Patuelli. Ma prima il traffico. Focus Economia. Evidenze parlano oggi di circa un migliaio di clienti più esposti, per un totale di 30 milioni di euro complessivo. Cosa intendiamo per clienti più esposti? Intendiamo piccoli risparmiatori o che abbiano meno di 100.000 euro di patrimonio presso le nostre banche, potrebbero averne anche da altre parti, ma questo, diciamo, sono i dati a noi disponibili, quindi presunti piccoli, e che abbiano oltre metà del patrimonio in questi titoli subordinati. Ecco, questi complessivamente sono un migliaio e chiaramente si evidenziano come i clienti più esposti, in totale fanno 30 milioni di euro. Ce ne sono poi 8.000 che hanno invece una concentrazione nel patrimonio finanziario presso queste banche che va dall'1 al 29%. Abbiamo poi dei casi intermedi che sono 1.500 risparmiatori che cubano complessivamente 93 milioni di euro. La normativa del bail-in è di settembre, in direttiva europea è di marzo 2014, quindi non siamo, come dire, molto lontani da questa tempistica. Dobbiamo tenere presente che se guardiamo per esempio alle emissioni di cui stiamo parlando, tutte sono realizzate ben prima della direttiva bail-in europea, che ha modificato in modo materiale e tangibile il rischio di questi prodotti, e oltre metà erano state emesse prima della crisi finanziaria del 2008. Erano prodotti che erano più rischiosi rispetto per esempio alle obbligazioni ordinarie o ai depositi che in quel momento stesso venivano emessi, ma in quel momento la loro rischiosità è una rischiosità che ancora non sapeva che in futuro ci sarebbe stata una crisi finanziaria come quella di Lehman, e men che meno sapeva che addirittura 9 anni dopo sarebbe uscita una, 8 anni dopo, chiedo scusa, una normativa del bail-in. Qua credo forse possiamo interrogarci tutti, nell'ambito di normativa europea intervenuta, se non fosse stato il caso di prevedere delle forme di transizione, no? Perché è evidente che qui arriva una legge che immediatamente rende più rischioso un prodotto che la gente ha già acquistato. Questo è un elemento importante che qualche riflessione a livello europeo probabilmente potrebbe, dovrebbe ingenerarla. Così dunque Roberto Nicastro, che è il presidente delle quattro banche nella nuova versione, quelle salvate. Ci scrive un ascoltatore che lavora per la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, tra l'altro, dicendo, smentendo parte delle ricostruzioni che sono state fatte in questi giorni, e quindi la diamo, ci dice: ci hanno mentito fino al 19 novembre rassicurando noi per rassicurare i clienti. A mia conoscenza non sono mai stati fatti ricatti, ma sui dipendenti sì. E dice: non ho mai ricevuto un euro di premio per aver piazzato obbligazioni, e anzi ci siamo fatti il mazzo per l'ultimo aumento di capitale convinti di salvare la banca e non ci hanno neanche detto grazie. Moria Longo del Sole 24 Ore, ciao Moria. Ciao, buonasera a tutti. Allora, in apertura di trasmissione, quando abbiamo iniziato a parlare appunto di questo tema, qualche ascoltatore ci ha scritto, ci ha detto: ma insomma, se ti presentano un'obbligazione con un rendimento al 7%, qualche domanda tutto sommato dovresti fartela. Ecco, nel pezzo che tu scrivi oggi sul Sole 24 Ore si spiega in realtà che queste banche non è che offrissero questi rendimenti straordinari. No, tutt'altro. Il vero problema di queste obbligazioni non sta tanto nel default finale. Il default è un qualcosa che può accadere nella vita di qualunque impresa, banche incluse. Il problema sta nel fatto che queste obbligazioni non remuneravano affatto per il rischio che comportavano, anche prima della direttiva del bail-in. Vi spiego perché. Allora, io ieri mi sono fatto dare alcuni paragoni con altre obbligazioni. Allora, ho preso una obbligazione della Banca Popolare dell'Etruria, emessa nell'ottobre del 2013, rendeva il 5%. Ai tempi i tassi erano più alti di oggi, il BTP rendeva circa il 4,5%, quindi questa rendeva poco più di un BTP. Eppure era un'obbligazione subordinata, quindi era già più rischiosa di un titolo di Stato, ma molto più rischiosa. Ebbene, un'obbligazione subordinata uguale di Banca Intesa emessa nello stesso periodo, stiamo parlando della banca più solida, una delle più solide d'Italia, rendeva il 6,75%, cioè 1,75% in più del bond di Banca Etruria. Questo cosa vuol dire? Che l'obbligazione di Banca Etruria era più rischiosa di quella di Intesa, perché una banca comunque già allora era più in difficoltà rispetto a Banca Intesa, però rendeva molto meno. Questo cosa vuol dire? Che il risparmiatore ha percepito un rendimento molto più basso di quello che avrebbe dovuto. Questo cosa significa? Che il risparmiatore è stato beffato due volte. Primo perché gli hanno negato, tra virgolette, una parte di rendimento che gli era dovuta, perché gli hanno venduto un'obbligazione che rendeva molto meno, aveva un tasso di interesse troppo basso. Secondo, l'hanno tratto in inganno, perché io concordo con l'ascoltatore che dice se avessero avuto un rendimento del 7% dovevano porsi una domanda. Il problema è che non avevano un rendimento del 7%. Ci sono obbligazioni subordinate di Banca Etruria, di queste quattro banche, che rendevano il 3,5%, rendevano pochissimo. Allora il risparmiatore veniva tratto in inganno perché non capiva che era un'obbligazione subordinata, ma non lo capiva neanche dal rendimento. Se avesse avuto un rendimento 10 punti percentuali più alto di un BTP, uno magari dice, beh, qua c'è qualcosa che non quadra. Ma se ti rende lo 0,% in più di un titolo di Stato, è ovvio che uno non si pone questa domanda. Quindi la beffa è doppia: nel rendimento troppo basso che ha tolto, a prescindere dal default, una fonte di reddito che sarebbe stata gli interessi, ed altro perché è stato fuorviante. Quel rendimento ingenerava una falsa percezione del rischio da parte del risparmiatore. Una domanda brutale, Moria, ma c'è qualcuno che deve vigilare su tutto questo? Oppure, non so, appunto su questo fronte vige una totale libertà, allora, per cui la banca può emettere una subordinata con quel tipo di rendimento e vedere se qualcuno gliela prende, nella fattispecie piazzarla, appunto, ai... Premesso che tante banche vendono obbligazioni ai propri clienti a rendimenti molto più bassi di quelli di mercato. Premesso, non soltanto queste quattro fallite. Prima premessa. Secondo, io di questi temi mi occupo da tanti anni, molto prima di questi default. Io ho posto questa domanda alla Consob molto tempo fa e la risposta giustamente è stata: ma la Consob, o anche la Banca d'Italia, in questo caso la Consob, mi rispondeva: non può dire qual è il prezzo giusto di un'obbligazione. La risposta fu: noi non facciamo ok il prezzo giusto. Ricordo proprio questa frase, mi colpì. Ed è corretto, non è che il prezzo di un'obbligazione al rendimento non può essere imposto dallo Stato, il decreto presidenziale che dice che l'obbligazione deve rendere X. Il prezzo di un'obbligazione è solitamente dato dal mercato, come in tutti i mercati. Il problema qual è? Che qua c'è una simmetria informativa. Il mercato, cioè i risparmiatori, sono disinformati rispetto a chi colloca, che è la banca. Siccome, ricordiamo, un'obbligazione è un prestito che il risparmiatore fa alla propria banca. Siccome è la banca che vende il proprio prestito al proprio cliente, è ovvio che la banca tende a tenere più basso possibile il tasso di interesse, perché è il tasso che lei deve pagare. Come se io andassi a fare un mutuo e fossi io a decidere il tasso del mio mutuo, è ovvio che mi farei un mutuo a 0%, anzi forse a meno 10%. Quindi il problema sta nella simmetria informativa. Quindi questo è un mercato totalmente squilibrato in cui chi vende ha le informazioni, magari non il singolo sportellista che lui stesso magari non è informato sullo stato di salute, ma chi crea l'obbligazione all'interno della banca sa qual è la situazione, sa quale dovrebbe essere il rendimento giusto, ma lo colloca a un prezzo molto più basso, a un rendimento molto più basso. E chi compra, che è quello che dovrebbe fare il mercato, in realtà non ha le competenze. Quindi c'è proprio un problema di asimmetria informativa che andrebbe in qualche modo sanato. Brevemente, Moria, in 30 secondi, tutta questa vicenda sta generando dei problemi su tutto il settore dei titoli subordinati, delle obbligazioni subordinate, soprattutto le piccole banche. Assolutamente, stanno risalendo tutti i rendimenti, la gente cerca di vendere. Tra l'altro queste obbligazioni, altro problema, sono illiquide, non hanno un mercato, per cui molto spesso è difficile rivenderle. Anche tanta gente di Banca Etruria così hanno dichiarato che da tempo provavano a vendere e non ci riuscivano. Quindi però i rendimenti stanno salendo per molte obbligazioni subordinate, soprattutto delle banche un po' più chiacchierate, e questo è un problema per quelle banche. Quindi c'è un effetto domino effettivamente, quindi andrà presa una decisione. Bisogna risolvere il problema sia per tutelare il risparmio, sia per tutelare anche le altre banche. Grazie a Moria Longo del Sole 24 Ore. Vi ricordo appunto che anche per questo, per riportare la fiducia, abbiamo lanciato come gruppo editoriale il manifesto per la tutela del risparmio. Trovate i dettagli sul Sole 24 Ore in edicola. Tra l'altro parla il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che dice: chi ha truffato dovrà pagare e chi è stato truffato sarà risarcito. A chiudere sentiamo l'intervista realizzata da Giovanni Minoli a Mix 24, il presidente dell'ABI Antonio Patuelli, il quale dice: questi i titoli pericolosi vanno trattati come le sigarette, cioè ci va scritto sopra a caratteri cubitali che può nuocere in questo caso al portafoglio. La lotta al fumo è stata fatta fin dalla seconda metà degli anni Ottanta in varia maniera, innanzitutto scrivendo a caratteri cubitali obbligatori sui pacchetti di sigarette nuoce gravemente alla salute. Cioè voi prevedete un sistema analogo, insomma. Chiedo che le competenti autorità, che penso siano europee, o per legge di Stato impongano a tutte gli emittenti e i venditori di titoli che venissero definiti dalle medesime autorità ad elevato rischio di apporre nella prima pagina di questi moduli. Sì, si pare come le sigarette. Con gli stessi caratteri cubitali delle sigarette, con scritto prodotto finanziario ad alto rischio. E questa è la proposta che l'ABI e la assolutamente, diciamo, e di conseguenza una cosa molto semplice e quindi molto chiara, non c'è un tabaccaio che possa dire dice non è vero, fa finta di non guardare, Certo. Stappo il pacchetto di sigarette. Chi lo compra lo sa. A quel punto, e abbiamo finito con gli equivoci. Ascoltatore a chiudere ci scrive: il problema si risolve solo ed esclusivamente vendendo queste obbligazioni agli investitori istituzionali. Ma quale investitore istituzionale si prende una subordinata di Banca Etruria al 5%? Ma quando mai? Il problema è stato anche questo. Grazie Andrea Roccabella in regia, Mauro Del Corno in assistenza in redazione. Io vi auguro una buona serata. Simone Spezia, noi ci si sente domani alle 13 con Effetto Giorno. Per Focus Economia torna Sebastiano Barisoni. Radio 24. La passione si sente.